Focus Economia. Minuti, buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a una nuova puntata di Focus Economia. Staremo insieme a Alessio Maurizi per quest'oggi al microfono. Staremo insieme fino alle 18.30, come sempre ogni giorno, per commentare i fatti economico-finanziari della giornata. Sicuramente a dominare l'attenzione il dato sulla disoccupazione italiana, risalita al 7,9% e tornano a crescere i disoccupati. Per la prima volta c'è un calo dell'occupazione da 14 anni a questa parte, quindi insomma non è un dato molto positivo. C'è un altro elemento che riguarda la crisi economica, questo a livello mondiale, ed è una contabilità ancor più drammatica, è quella delle persone sottonutrite, delle persone che soffrono la fame nel mondo, e la FAO ha peggiorato le sue stime per quest'anno e ha recensito, pensate, oltre 1 miliardo di persone che soffrono la fame nel mondo per la prima volta, questo proprio nella storia dell'umanità. Il tutto mentre l'Europa cerca di trovare una via, l'Unione Europea, una via per risolvere i mali soprattutto finanziari della crisi economica. Sembra un tema lontanissimo da quei due prima enunciati, invece in realtà su come reagire e controllare i sistemi finanziari che si legano a quelli economici è un tema molto importante. Tutto con le decisioni già prese dagli Stati Uniti 2 giorni fa, e risentiremo anche la voce di Obama. 349-238-6666 per i vostri sms, uno sguardo anche all'andamento della borsa in questo momento. Cominciamo con l'America, Dow Jones più 0,63%, il Nasdaq fa anche meglio, più 1,58%, giornata positiva anche per i listini europei, Londra più 1,7%, a Piazza Affari l'S&P MIB non c'è più, è un riflesso condizionato, adesso c'è il FTSE MIB che guadagna lo 0,75%, ne parleremo più avanti nel dettaglio. Adesso cominciamo con tutte le notizie economico-finanziarie della giornata. E partiamo, come spesso, dal petrolio, che sul mercato di New York ha superato i $72 al barile. E allora pensate che qui c'è un raddoppio esatto del prezzo negli ultimi 3 mesi, perché a febbraio la quotazione del petrolio era di $32, adesso siamo a 72. E se vogliamo continuare a tenere a mente la contabilità dei numeri, c'è un altro che riguarda le tasche di tutti noi, il tasso Euribor con cui le banche misurano i prestiti tra di loro, ed è sceso l'Euribor a 3 mesi all'1,22%, scendendo così di 2 punti base. E poi, come dicevamo, un altro numero della crisi, questa però è una contabilità davvero drammatica e dolorosa. Per la prima volta nella storia dell'umanità, oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo risultano sottonutrite. Sono dati resi noti dalla FAO, che ha rivisto così al rialzo le stime per il 2009. La cifra di 1 miliardo di persone supera di oltre 100 milioni il livello di sottonutriti dell'anno scorso. E invece, per quanto riguarda la situazione dell'economia italiana, oggi nuovo intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi a Bruxelles per il vertice europeo. Berlusconi insiste sull'ottimismo e sulla necessità di avere fiducia. Dice: le cause della crisi economica a questo punto sono eminentemente psicologiche. Perché per questo oggi dall'Unione Europea deve arrivare un messaggio ai cittadini per una maggiore fiducia. Dichiarazione al termine del vertice, come dicevamo, europeo di Bruxelles. Berlusconi ha anche ribadito che la situazione italiana della disoccupazione è migliore di quella della media europea, e questo cercheremo di capirlo più avanti in uno dei nostri approfondimenti. Perché un altro tema di giornata, come dicevamo, è il dato sulla disoccupazione. Allora, gli occupati in Italia sono diminuiti nel primo trimestre di 204.000 unità. primo trimestre di quest'anno naturalmente. Il dato risente diciamo del calo dell'occupazione di 426.000 persone e di un aumento dell'occupazione per 222.000 lavoratori, il che dà una differenza appunto in negativo di oltre 200.000 unità. E per l'occupazione italiana è il primo calo dopo 14 anni a questa parte. Sì, eravamo abituati a avere un mercato del lavoro che teneva anche in tempi di crescita del PIL non molto accentuati, ma insomma il mercato del lavoro italiano aveva fin qua tenuto. C'è stata un'inversione di tendenza, adesso viene registrata con questi dati dell'Istat. Però c'è da registrare il commento del ministro del welfare Maurizio Sacconi, che dice: questa misura dell'Istat, ripeto, più 7,9% il tasso di disoccupazione in Italia, è minore di quello che temevamo. Sentiamo Sacconi. Sono meno negativi di quello che potevamo temere. Siamo ancora al di sotto dell'8% in un paese che fino a non molti anni fa aveva il 12,5% quale tasso di disoccupazione. Dobbiamo sempre fare questi confronti per capire con che cosa ci confrontiamo, il che non toglie nulla toglie alla preoccupazione che dobbiamo avere nei confronti di quelle persone che rientrano in quella, nel risultato di quella statistica. Noi abbiamo lavorato affinché rimanessero quanto più vivi i rapporti di lavoro. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati e per fortuna l'abbiamo raggiunto. Questo dunque il ministro del welfare Maurizio Sacconi, il quale ha anche rinnovato il suo invito ai giovani ad accettare tutti i lavori disponibili, tutti gli impieghi disponibili, perché secondo Sacconi i dati dell'Istat devono far riflettere gli italiani sul fatto che continuano ad esserci lavori rifiutati da parte di giovani possibili occupati, che invece evidentemente scelgono, secondo Sacconi, di non essere occupati. Dal ministro del welfare non solo consigli ai giovani appunto, ma anche promesse di nuovi interventi, un premio occupazione, ovvero sia un incentivo ad hoc per le aziende che decidono di non ricorrere alla cassa integrazione per i lavoratori o che invece riammettono i cassa integrati di quella stessa azienda. È questo, secondo Sacconi, uno degli obiettivi che il governo inserirà in un nuovo pacchetto anticrisi a cui appunto l'esecutivo sta lavorando. Da registrare anche le prese di posizione delle associazioni di categoria. Cominciamo con la Confcommercio, che commenta la riduzione dell'occupazione dicendo che questa avrà effetti anche sulla riduzione dei consumi. Una riduzione dei consumi che la Confcommercio dice non sarà un vero e proprio crollo. Ecco, meno male, insomma, una notizia negativa, ma che possiamo leggere anche in positivo. Il calo, la Confcommercio lo stima per quest'anno, nel 2009, in un calo appunto dell'1,4%. E poi l'associazione degli industriali, guidata da, come sapete, da Emma Marcegaglia, che ha rinnovato una richiesta al governo, un auspicio che gli industriali fanno, ovvero sia un decreto che sia una sorta di Tremonti Ter, ha detto la Marcegaglia, speriamo che a breve possa arrivare, per uno sgravio fiscale alle imprese che investono e soprattutto che investono in beni strumentali. E poi per quanto riguarda il fronte delle infrastrutture, una notizia che riguarda il ponte sullo Stretto di Messina, di cui si erano forse un po' perse le tracce. Ebbene, l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, dice che negli ultimi 12 mesi di quest'anno la società ha posto in essere tutte le condizioni per la ripresa delle attività inerenti alla costruzione del ponte sullo Stretto, risolvendo molte delle problematiche dovute alla lunga fase di stallo del progetto. Ciucci ha anche indicato per l'inizio del 2010, dunque tra 6-7 mesi circa, la data per l'avvio dei cantieri. Dunque tra 6-7 mesi il via, secondo l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, i lavori per la costruzione del ponte. Restiamo in tema di trasporti e infrastrutture, perché questa mattina si è tenuta a Roma l'High Level Passenger Meeting, ovvero sia l'incontro annuale delle 29 imprese ferroviarie europee per stabilire regole comuni e uniformi tra gli stati membri. La dichiarazione presentata da Mauro Moretti, che è anche presidente della Comunità delle Ferrovie Europee, da Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea, punta alla liberalizzazione, anche questo un tema ricorrente, delle reti ferroviarie e anche ad investimenti per la costruzione di nuove infrastrutture e l'ammodernamento di quelle già esistenti. Sentiamo Antonio Tajani al microfono della nostra Cristina Fei. Anche nel settore del trasporto bisogna puntare fortemente sulle liberalizzazioni, in modo particolare per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Nel 2010 comincia sulle tratte internazionali la liberalizzazione per il trasporto passeggeri, mi pare un grande passo in avanti e questo rappresenta il futuro, creare un grande mercato interno nel sistema del trasporto passeggeri ma anche del trasporto merci. Ai diritti dei passeggeri stiamo facendo molto per garantire a tutti i passeggeri in tutti i sistemi di trasporto di avere tutelati i loro diritti. È una questione di libertà, è una questione di civiltà. Anche nel testo della comunicazione sul futuro dei trasporti 2010-2020 approvata dalla Commissione europea su mia sollecitazione si parla molto dei diritti dei passeggeri, sul ruolo che devono avere i passeggeri, perché il cittadino è al centro di ogni azione che le istituzioni e anche gli enti come sono quelli ferroviari devono avere. Penso che si potrà fare ancora di più, si potrà ancora lavorare meglio per tutelare i diritti dei passeggeri nel senso più ampio del termine, non soltanto per i passeggeri a mobilità ridotta, ma anche perché si possono dare servizi di più alto livello, di più alta qualità e anche servizi meno inquinanti con un sistema di trasporto sempre più moderno e che produce sempre meno effetti negativi per l'ambiente. Questo dunque il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani e a margine del convegno sulla liberalizzazione delle ferrovie europee Mauro Moretti ha parlato anche della situazione italiana, al via ha detto la ricapitalizzazione da 2 miliardi di euro di Trenitalia per affrontare la gara per 50 nuovi treni dell'alta velocità che dovrebbe essere bandita entro l'estate e staremo a vedere. 349-238-6666 per i vostri sms che cominciano già ad arrivare. E adesso cominciamo con il primo approfondimento di giornata che è dedicato alla situazione, al vertice europeo. Perché si è concluso poco fa il Consiglio europeo a Bruxelles in cui è stato raggiunto un accordo. E vedremo di capire che accordo è sulla riforma della vigilanza finanziaria, un tema che sembra lontano, che sembra difficile da comprendere, ma non è così perché insomma, già 2 giorni fa Obama ha annunciato qualcosa di simile, ma forse di più significativo in America. E noi sappiamo che le regole del mercato sono importantissime per la stabilità finanziaria, per evitare il ripresentarsi di crisi come quella da cui stiamo lentamente uscendo in questi giorni, in queste settimane. Ne vogliamo parlare con Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore proprio da Bruxelles. Buonasera Enrico. Buonasera. Allora, la notizia, i leader dei 27 dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sulla riforma della vigilanza finanziaria, accogliendo tra l'altro molte delle richieste del Regno Unito. Adesso cercheremo di capire di cosa si tratta. È stato un cammino accidentato, ha detto il premier ceco Jan Fischer, presidente di turno, come sappiamo, dell'Unione, e visto l'impatto e gli effetti di questa grave crisi, ha detto Fischer, il risultato di oggi può essere considerato soddisfacente, ma vediamo. Allora, prima di commentare insieme, Enrico, sentiamo la dichiarazione invece del presidente della Commissione europea Barroso, questo passaggio della conferenza stampa al termine del Consiglio. Siamo stati in grado di raggiungere risultati importanti nell'interesse dei cittadini. Sono estremamente soddisfatto perché abbiamo raggiunto un importante risultato sul fronte della vigilanza finanziaria. Stiamo riformando la finanza perché con sistemi finanziari efficienti ed etici si possono creare posti di lavoro. Abbiamo bisogno di un sistema europeo di vigilanza per far sì che siano messe in atto le riforme in ambito finanziario e questo nell'interesse di tutti gli Stati membri. Oggi è stato conseguito un risultato basato sulla proposta della Commissione e si è raggiunto un consenso sulla necessità di un approccio europeo nel campo della vigilanza finanziaria. Onestamente, solo qualche mese fa erano in molti a dire che non si sarebbe potuto raggiungere alcun tipo di accordo. Voglio sottolineare che il ruolo delle autorità di vigilanza nazionali resta e anzi viene rafforzato, viene migliorato e inserito in un quadro europeo. Il nuovo sistema sarà capace di prevenire il fallimento di istituzioni transfrontaliere e questo può far risparmiare una grande quantità di soldi dei contribuenti. Allora, questo Barroso, Enrico Brivio da Bruxelles, avevamo lasciato una situazione in cui c'erano le pressioni della Gran Bretagna, del Premier Gordon Brown, per insomma frenare un po' quelli che erano i bollenti spiriti di Francia, Germania, Italia, ma anche altri paesi, insomma, per appoggiare il piano della Commissione, che adesso ci spiegherai un po' quali erano appunto queste aspettative. Sappiamo che in ballo c'è la creazione di 3 autorità europee per la vigilanza su banche, assicurazioni e borse, con veri e propri poteri decisionali. Ricordavamo poco fa quello che ha fatto Obama in America, ma anche di questo parliamo tra poco, Enrico. Prima di tutto però arriviamo al senso di questo accordo che è stato presentato poco fa. Di che si tratta? Si tratta di un accordo che è in gran parte modellato su quello che era stato il rapporto presentato dai saggi guidati da Jacques de la Rosière in febbraio, cioè un accordo che prevede due nuove strutture a due livelli, microprudenziali, per maggiorare il coordinamento della vigilanza su banche, assicurazioni e mercati nelle varie nazioni, e coordinarlo, quindi anche aumentarne i poteri. E un altro a livello macro prudenziale, cioè che un organo, il Consiglio Europeo dei Rischi Sistemici, che si occuperà di sorveglianza, della sorveglianza dei grandi istituti finanziari con attività transnazionali e che quindi possono un po' sfuggire al controllo di una singola autorità nazionale. Ora, qui c'erano delle perplessità di Londra su due aspetti sostanziali. Uno, la quantità di poteri da devolvere, da passare dalle autorità nazionali alle autorità europee, perché come sappiamo Londra è molto gelosa. Cioè, ogni volta che si parla di questa cessione di sovranità, l'atteggiamento è sempre quello. Sì, esattamente. E poi il secondo era il meccanismo per dare la presidenza di questo consiglio macroprudenziale al presidente della BCE. Ora Londra, non partecipando all'euro, ha sempre spesso perplessità sul fatto di dare automaticamente la poltrona al presidente della BCE. Allora Enrico, sì, vai avanti, prego. No, si è arrivati a un compromesso, diciamo, un compromesso che in realtà rischia comunque di riesplodere in qualche suo aspetto a ottobre, quando si andrà poi alla formulazione delle proposte concrete. Legislative. Sì, esatto. Prego, per quanto riguarda il Presidente, si è scelto che sia eletto dal Consiglio di tutti i governatori europei, quindi anche da quelli non appartenenti alla zona euro, anche se appare quasi logico che sarà comunque il Presidente della BCE poi eletto, ma comunque Londra ha fatto passare questo principio, che non sia una questione automatica. Poi, per quanto riguarda invece la sfera dei poteri delle autorità nazionali, Londra ha fatto mettere nelle conclusioni in modo chiaro che le di questi organi europei non dovranno avere conseguenze fiscali, cioè conseguenze sul bilancio degli Stati. Quindi qualora questa autorità europea si trova a decidere, per esempio, la necessità di una ricapitalizzazione di una banca, non potrà imporla a uno Stato nazionale, cioè non potrà imporre a uno Stato di mettere del denaro dalle proprie case. È proprio su questa mancanza forse di veri e propri poteri che si misura un po' questo compromesso di cui tu parlavi e che sembra è destinato, come dicevi tu, a riesplodere. Tra poco ti voglio proprio chiedere un tuo parere, insomma, da osservatore attento, da commentatore delle vicende europee, su questo compromesso, perché non può non saltare agli occhi il confronto con quanto è stato deciso negli Stati Uniti 2 giorni fa. Sappiamo che il presidente americano Obama ha presentato il piano per introdurre maggiori cambiamenti alla rete di controlli del sistema finanziario nel suo paese dai tempi della Grande Depressione. Allora, sentiamo tra l'altro quello che ha detto Obama ieri a commento di questa svolta. Strong, vibrant financial markets. Il nuovo sistema finanziario statunitense deve essere forte, trasparente, giusto e capace di proteggere i consumatori e la nostra economia dalla catastrofe che abbiamo visto negli anni recenti. È indiscutibile che la crisi economica sia stata causata da una mancanza di regole volte a prevenire abusi ed eccessi. Una cultura dell'irresponsabilità si è diffusa da Wall Street a Washington fino alla gente comune. Un settore finanziario regolato da misure varate durante la Grande Depressione del XX secolo è stato spazzato via dalla sofisticatezza dell'economia globale del XXI secolo. Accanto alle lacune riguardo le regole, anche chi doveva vigilare non ha agito per far intervenire le autorità. La questione è: cosa facciamo ora? Proponiamo una riforma globale del sistema normativo della finanza, una trasformazione di dimensioni che non si vedevano dai tempi della Grande Depressione. Vogliamo un sistema che lavori per imprese e famiglie. Proponiamo che alla Federal Reserve sia data una nuova autorità e responsabilità per regolare le holding bancarie e le altre grandi imprese il cui fallimento metterebbe a rischio l'intera economia. Al vertice delle istituzioni ci sarà un consiglio di sorveglianza per riunire le autorità dei vari mercati, affinché condividano le informazioni. Per i gruppi finanziari di grandi dimensioni è in arrivo una Resolution Authority, un'autorità che non solo metterà in pratica tutte le salvaguardie necessarie a prevenire il fallimento di queste aziende, ma creerà anche un insieme di procedure per proteggere l'economia se uno di questi gruppi dovesse fallire. A set of orderly procedures that will allow us to protect the economy if such a firm does in fact go underwater. Insomma, al di là poi delle parole di Obama, sappiamo che la sostanza di questo piano è la concessione di maggiori poteri alla Federal Reserve, la banca centrale americana. Il piano dovrà avere poi i voti del Congresso. C'è stata anche la dichiarazione del ministro del Tesoro Geithner, che ha chiesto di imprimere un'accelerazione. Però ecco, su questo Enrico Brivio da Bruxelles stavamo proprio commentando invece il compromesso raggiunto oggi dai 27 dell'Unione. A tuo parere, questo compromesso su che lunghezza d'onda viaggia, tenendo presente i due estremi di una maggiore e minore incisività di queste misure, per evitare che anche in Europa si possano riprodurre crisi economico-finanziarie come quelle che stiamo vivendo? No, la lunghezza d'onda direi che più o meno è la stessa, cioè di aumentare il coordinamento delle autorità che si occupano di banche e mercati, assicurazioni, e di dare maggior potere alla banca centrale. Ora però, come abbiamo visto in Europa, abbiamo una capitale che è sede anche della maggiore piazza finanziaria europea, cioè Londra, che ha puntato i piedi, ha messo dei distinguo proprio perché non si riconosce la Banca Centrale Europea fino in fondo, non essendo un paese che ha aderito all'euro. Quindi questo crea indubbiamente una asimmetria. Però direi che la direzione è la stessa, fatto salvo che ovviamente abbiamo 27 sovranità nazionali da accordo nel caso dell'Europa, quindi l'operazione ovviamente è più complessa. E poi si vedrà nel momento in cui queste dichiarazioni verranno tradotte in leggi e in provvedimenti, veramente fino a quel punto le misure americane saranno più incisive, però diciamo la direzione è la stessa. Benissimo, staremo a vedere poi l'efficacia e la concretezza quando tutte queste misure diventeranno operative. Grazie per ora Enrico Brivio del Sole 24 Ore da Bruxelles. (349) 238 6666 per i vostri sms. Tra poco ci occupiamo di borsa, c'è chi ci chiede di parlare di Seat Pagine Gialle, vediamo, non mi pare ci siano oggi grandi spunti su quel titolo. Invece c'è chi se la prende con l'ottimismo di Berlusconi, che come sapete ha parlato anche oggi da Bruxelles di cause eminentemente psicologiche per la crisi. Chissà come commenterà, ci chiede un ascoltatore, il dato sulla disoccupazione. In realtà il commento è arrivato dal ministro ministro Sacconi del welfare, che ha detto il calo della disoccupazione, ve lo ricordo, ce ne siamo occupati nella prima parte di Focus Economia, è minore di quello che temevamo in Italia. Dunque un commento tutto sommato positivo, se non soddisfatto, di Sacconi su questo argomento. Adesso però è arrivato il momento di occuparci di borsa. E allora cominciamo con gli indici. Dow Jones più 0,4%, Nasdaq più 1,34% in questo momento. Dunque gli indici americani viaggiano tranquillamente in territorio positivo, così come positive sono le chiusure proprio in questi minuti delle borse europee. Qualcuna sta chiudendo adesso le contrattazioni, Parigi più 0,8%, Francoforte praticamente invariata, Londra addirittura più 1,7%. A Piazza Affari il FTSE MIB ha messo a segno un progresso dello 0,6%. Vediamo alcuni titoli: Enel più 4,6, Ubibanca più 4,4, Autogrill più 2,5, Buzzi Unicem guadagna anche qua 2,5% in percentuale, Luxottica il 2,4, così come Finmeccanica, così come Snam Rete Gas, Prismian più 2,14, insomma diamo un'occhiata veloce, Lottomatica più 1,7, Unicredit tiene più 1,37%, Eni guadagna qualche cosa, più 0,63%, in controtendenza Fiat meno 1,7, e poi molti titoli del settore bancario: Intesa meno 2,4, Banco Popolare Milano meno 2,7, Banco Popolare addirittura meno 3,3%. Andrea Fontana di Radio Corre Sole 24 Ore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, cominciamo proprio forse dal settore delle banche, Andrea, perché dopo che l'agenzia Moody's ha ipotizzato dei declassamenti anche per i nostri istituti di credito, qualcosa c'è da dire. Oggi insomma si salvano forse Unicredit e poco altro, Montepaschi, dici un po'? Sì, certamente diciamo le indicazioni di Moody's si sono fatte sentire, ad esempio sulla Popolare di Milano, uno dei tre big, diciamo, degli istituti per i quali potrebbe essere in vista una revisione del rating da parte appunto dell'agenzia. Appunto, come tu ricordavi, Popolare di Milano ha perso il 2,7%. In generale le banche e le assicurazioni, almeno le principali come Generali e Alleanza, hanno un po' tenuto a freno l'indice milanese, che è andato un po' meno, è stato un po' meno vivace rispetto a Londra e a Parigi, mentre è stato piuttosto in linea con Francoforte, anche se sul finale ha messo a segno un buon recupero che l'ha tenuto non lontano dai massimi. Sul fronte bancario, per chiudere il discorso su questo settore, da segnalare la debolezza di Intesa, e qui hanno un po' pesato, diciamo, le indicazioni di questa mattina dell'amministratore delegato Corrado Passera, che interrogato sul nuovo piano industriale che era stato annunciato per l'estate, insomma, o per la fine dell'estate, ha detto che insomma non è così facile fare previsioni sull'arco temporale di un triennio in questo momento, in questa fase finanziaria e economica, lasciando forse intendere, almeno qualcuno sul mercato ha interpretato così, che il piano possa in qualche misura slittare, la presentazione del piano possa in qualche misura slittare magari oltre l'estate. Questo insomma sul titolo ha un po' influito. Bene, questo per quanto riguarda i titoli del settore bancario. Che cosa ci dici invece, Andrea, di Finmeccanica, un titolo che è tornato a muoversi anche oggi, più 2,45%? Sì, è da qualche giorno che chi osserva il listino milanese vede una Finmeccanica molto vivace, una vivacità che è figlia dei numerosi contratti siglati dal gruppo guidato da Pierfrancesco Garguaglini, in particolare negli Stati Uniti attraverso la controllata DRS, ma anche per quanto riguarda il progetto Superjet che viene condiviso con la russa Sukhoi, e di questo se ne sono accorti, insomma, diciamo. diciamo così per usare un eufemismo, anche gli analisti e le case d'affari. Oggi Nomura ha indicato la raccomandazione acquistare sul titolo, e il titolo ha continuato a viaggiare bene, come tu ricordavi, chiudendo a più 2,4%. Parliamo sempre dei principali titoli, insomma di quelli che fanno parte del paniere FTSE MIB, e vediamo muoversi anche qua positivamente, quindi in linea con il listino. L'Automatica guadagnare l'1,7%, in vista ci sono delle decisioni che potrebbero ovviamente avere dei riflessi? Sì, c'è l'attesa per l'assegnazione di lotterie. In generale l'Automatica è un titolo che risente appunto influenza, risente di queste attese e di queste notizie. Non è stato ha fatto molto meglio del listino, anche se non è stato tra i primissimi, diciamo così, perché ci sono stati diversi titoli che hanno guadagnato oltre il 2%, in particolare bene il settore dell'energia, si sono distinti Snam Rete Gas, un settore energia che soprattutto sul finale ha permesso di risollevare il titolo, e tra questi il migliore del FTSE MIB è stato il titolo dell'energia per eccellenza in Italia, cioè Enel, che ha guadagnato con uno scatto finale oltre il 4%. Invece per quanto riguarda Eni, che ha messo a segno un modesto rialzo, oddio, a dire la verità in linea con il FTSE MIB, qui il rialzo di Eni è dello 0,63%, come si è mosso il titolo a pochi giorni dall'emissione del bond? Diciamo oggi è stata una giornata abbastanza transitoria per il titolo, che nella fase centrale del pomeriggio aveva viaggiato anche in rosso, tra l'altro un po', diciamo così, in controtendenza rispetto al comparto delle materie prime, comparto petrolifero e comparto delle materie prime, che invece oggi è stato particolarmente vivace. Certamente ha un po' preoccupato la notizia del sabotaggio dell'oleodotto in Nigeria, che si è verificato la notte scorsa, che è stato annunciato e confermato dalla stessa Eni durante la mattinata, una situazione di tensione che ha caratterizzato per motivi diversi anche altri titoli, qualche altro titolo petrolifero come quello della francese Total, anch'esso debole a Parigi, perché circa 900 dipendenti hanno dato vita a uno sciopero selvaggio in una raffineria britannica, dove erano stati annunciati dei tagli, e Total ha deciso il licenziamento di questi 900 dipendenti, e questo si è sentito abbastanza anche su il titolo francese. Andrea, un'ultima cosa flash te la vorrei chiedere in chiusura di questo approfondimento sulla borsa. Su Fiat abbiamo speso fiumi di parole ieri, l'incontro dei vertici, rassicurazioni, non chiuderemo gli stabilimenti, la telenovela va avanti. Oggi però un titolo che cede l'1,7%, come mai, ammesso che tu sia in grado di dare... Va detto che Fiat ha un po' seguito, facendo un po' peggio effettivamente, va sottolineato questo, ma ha un po' seguito quello che è stato il trend del comparto auto, che non è stato positivo in tutta Europa. L'indice europeo ha perso circa l'1%, ha un po' influito il dato comunicato da Porsche, che ha indicato come i propri volumi d'affari si è sceso del 15% nei primi 9 mesi dell'esercizio corrente, è sceso anche l'utile operativo per Porsche, però diciamo non una buona giornata per il settore auto. Sì. Fiat ha effettivamente pagato più del comparto. Grazie Andrea Fontana di Radio Corso. C'è un ascoltatore che ironicamente scrive al 349-238-6666: la Fiat è nuovamente in garage? No, non è questo il punto, la battuta è simpatica, ma insomma una battuta d'arresto del titolo in una situazione che riguarda l'industria tutta aperta, e in cui ieri sono arrivate notizie, rassicurazioni, notizie positive per quanto riguarda il destino degli stabilimenti italiani. 17:48 minuti, gentili ascoltatori, terzo approfondimento di giornata tra gli effetti della crisi economica e il nuovo record drammatico degli affamati. E pensate che per la prima volta nella storia oltre un miliardo di persone in tutto il mondo risultano sottonutrite. Lo rende noto la FAO, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che ha rivisto a rialzo le sue stime per quest'anno sul numero di persone che appunto soffrono la fame e che superano il miliardo. Tale cifra è superiore di oltre 100 milioni al livello registrato l'anno scorso e rappresenta tra l'altro circa un sesto a questo punto della popolazione mondiale. E ne vogliamo parlare con il professor Giorgio Barba Navaretti, docente di economia internazionale all'Università Statale di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. E allora cominciamo, professore, cercando di capire un po' quella che è anche la localizzazione nel mondo di questo miliardo, ripetiamo, poco più di un miliardo di sottonutriti nel mondo che la FAO ha stimato, recensito e che è purtroppo in aumento rispetto al passato. Sappiamo che insomma la fame si concentra soprattutto in Africa, in Asia, parte anche in America Latina, però qua si parla anche di una fettina che si affaccia nei paesi sviluppati, circa 15 milioni di sottonutriti. Cominciamo con questo aspetto. Beh, certamente con il calo del livello di reddito, con l'aumento dei problemi di disoccupazione anche nei paesi industrializzati, la parte più povera della popolazione, diciamo più esposta, più vulnerabile, soffre di problemi di questo tipo, quindi non è sorprendente in questo momento di congiuntura economica. Per quanto riguarda le altre aree, è chiaro che da un lato vediamo che i paesi più poveri, le aree più povere, tipo l'Africa subsahariana o alcuni paesi dell'Asia del Pacifico, soffrono, e questo anche questo non è sorprendente. E infine ci sono anche dei problemi in paesi, ad esempio nel Vicino Oriente o nel Nord Africa, che in realtà sono paesi non a reddito bassissimo, ma paesi a reddito medio, ma dove sappiamo c'è una forte disuguaglianza nel livello di ricchezza della popolazione, e quindi di nuovo quelle fasce più vulnerabili ovviamente soffrono. E invece per quanto riguarda le cause di questa situazione, che purtroppo conosciamo da tempo e contro la quale non si riesce poi bene neanche a intervenire, forse a volte non si vuole neanche realmente incidere, le cause, dicevamo, perché questo aumento dei sottonutriti nel mondo sembra intrecciarsi anche con la crisi economica che ha riguardato principalmente i paesi sviluppati, ma non solo. Si parla, per esempio, la FAO dice di una diminuzione delle rimesse degli immigrati dai paesi ricchi ai paesi poveri, che ha contribuito, però ci sono anche cause tradizionali, come per esempio i sistemi agricoli che non sono efficienti e altri, professore. Beh, certo, quelli sono fattori, gli ultimi che lei ricordava sono fattori strutturali che rimangono tali. Credo che qui il problema è un po' un problema di una forbice. Da un lato il fatto che nell'ultimo anno sono aumentati moltissimo i prezzi dei generi alimentari, dopodiché hanno iniziato a scendere a partire dall'estate del 2008, ma però più lentamente parrebbe nei paesi in via di sviluppo che altrove, e quindi comunque il livello è rimasto ancora abbastanza alto. A questo si aggiunge il fatto che, come conseguenza della crisi, molti paesi hanno visto una riduzione del livello di reddito. Abbiamo parlato prima delle fasce più vulnerabili, anche nei paesi più avanzati e nei paesi emergenti, mentre nei paesi invece più poveri si è ridotto molto l'afflusso di risorse che tradizionalmente arrivavano dai paesi più ricchi, che erano appunto, come ricordava lei, le rimesse degli emigrati e gli aiuti allo sviluppo. Quindi una riduzione di risorse finanziarie verso questi paesi, che in molti casi sono concentrate sulle fasce più vulnerabili e di conseguenza determinano un aumento della malnutrizione. Ecco, un miliardo di persone nel mondo sottonutrite, una cifra che aumenta, lo ripetiamo, anche rispetto al passato, è una cifra impressionante. Forse detta così non serve nemmeno a dare la dimensione davvero di qual è il fenomeno. Che cosa si, visto lei parlava soprattutto della questione dei prezzi dei generi alimentari, che sono rimasti troppo alti, sono addirittura forse cresciuti, Partendo anche da questa sua analisi, cosa si potrebbe e si dovrebbe fare? Perché insomma, quando si affronta questo tema si dice investire, aiutare nuovi sistemi nelle relazioni commerciali, nuove regole nelle relazioni commerciali. Da dove si potrebbe tentare di intraprendere un percorso per diminuire questa situazione? Beh, diciamo che gli equilibri sui prezzi sono molto complessi, perché la liberalizzazione degli scambi, se in certi paesi, in certi contesti, può portare a un abbassamento dei prezzi, in altri li alza perché riduce i sussidi alla produzione, quindi diciamo potrebbe essere un po' ambiguo l'effetto. Quindi inevitabilmente un processo di liberalizzazione dovrebbe essere accompagnato dalle politiche di redistribuzione a livello di politiche fiscali dei singoli paesi per cercare di sostenere il livello di consumo della popolazione, quindi questo senz'altro. Detto questo, è chiaro che siamo anche in una contingenza molto difficile, nel senso che, come lei sa, fino al periodo precedente alla crisi era aumentato molto il numero di persone che erano uscite dalla povertà, grazie in parte all'integrazione di molti paesi nei mercati globali, vedi la Cina, vedi l'India. Ecco, questo processo in parte si è un po' invertito con l'emergere della crisi, quindi il numero di poveri ha smesso di ridursi e di decrescere, e quindi siamo in una fase in cui è assolutamente fondamentale mettere un atto delle politiche di redistribuzione delle risorse, non ridurre eccessivamente gli aiuti allo sviluppo, nonostante appunto i paesi anche più ricchi siano in difficoltà, perché è importante sostenere veramente le fasce delle popolazioni, ma a livello globale, che sono più vulnerabili e più esposte. Grazie professor, ricordiamo Giorgio Barba Navaretti, docente di economia internazionale alla Statale di Milano. Buonasera, grazie per essere stato con noi. Buonasera a voi, grazie. Minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, 349-238-6666, la seconda parte di Focus Economia. C'è chi ci scrive al nostro SMS: crescono gli affamati perché la FAO mangia sempre di più. Beh, insomma, la battuta mi sembra un po' stupidina, permettetemi, perché certo la crescita del numero di sottonutriti non sarà forse la FAO la risposta, l'agenzia dell'ONU. Sappiamo che queste agenzie spesso non sono efficienti, a volte anche producono sprechi, però certo non può essere questa la causa, e questo mi sembra fin troppo facile. Riprendiamo allora i temi di questa giornata con il prossimo approfondimento, prima però una ripresa di quelle che sono le principali notizie economico-finanziarie della giornata. La prima è senz'altro questa, appunto dei dati, come avete sentito anche nel GR, le stime aggiornate purtroppo a quest'anno della FAO, che parla di un aumento di oltre 100 milioni di popolazione mondiale sottonutrita nel mondo, una cifra che adesso supererà, secondo la FAO, il miliardo di persone quest'anno. E poi c'è da registrare l'Unione Europea che si muove sul fronte della riforma della vigilanza finanziaria. I 27 leader dell'Unione Europea hanno infatti trovato un accordo sulla riforma appunto della vigilanza finanziaria, accogliendo molte delle richieste del Regno Unito, che come sapevamo frenava un po' per non andare molto al di là di una certa asticella sulle cessioni di sovranità a Bruxelles anche in tema di regolazione finanziaria. È stato un cammino accidentato, ha detto il premier ceco Jan Fischer, presidente di turno dell'Unione, e visto l'impatto e gli effetti di questa grave crisi, il risultato, ha detto Fischer, può essere considerato soddisfacente. Staremo a vedere se sarà così. E da Bruxelles è intervenuto anche il nostro Presidente del Consiglio, Berlusconi, che a proposito della crisi è tornato a insistere sul tema della fiducia e dell'ottimismo. Ha detto: le cause della crisi economica sono a questo punto eminentemente psicologiche. Per questo oggi dall'Unione Europea deve venire un messaggio ai cittadini per una maggiore fiducia. Berlusconi ha anche ribadito che la situazione italiana della disoccupazione è migliore di quella della media europea. Ricordiamo il dato dell'Istat, più 7,9%, la crescita della disoccupazione, un'inversione di tendenza dopo molti anni a questa parte. Ne parleremo tra pochissimo. E poi una presa di posizione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in tema d'Europa, di crisi economica e di Eurobond, perché, ha detto Napolitano, la penso come il Ministro Tremonti. Sarebbe stato importante ricorrere agli Eurobond per finanziare le obbligazioni a livello europeo, come sapete un tema lanciato proprio da Tremonti, per finanziare, ha detto Napolitano, progetti finanziari transnazionali per la ripresa economica. Non è stato possibile e per questo la risposta dell'Unione Europea alla crisi è stata parziale. E insomma una mezza spallatina a Bruxelles oggi arriva anche da Napolitano. Un'ultima notizia riguarda l'Italia ed è l'ufficializzazione di qualcosa di cui si era parlato già nei giorni scorsi, un protocollo d'intesa per l'amministrazione delle aziende sequestrate in base alla normativa antimafia. È stato sottoscritto nella sede di Confindustria Napoli alla presenza del ministro degli interni Maroni. Si tratta del primo accordo di questo tipo in Italia, ha sottolineato il ministro, è una sperimentazione, un modello da esportare nelle altre province. Ad amministrare le aziende sequestrate alla criminalità organizzata saranno, ed è questo il punto dell'accordo, manager provenienti dalla Fiat e da altre aziende, stiamo parlando di Napoli e della Campania, con il coordinamento di Confindustria Napoli che ha promosso questa iniziativa. 18 e 13 minuti, queste erano le notizie, principali notizie economiche della giornata. Adesso veniamo al nostro approfondimento di questa seconda parte di Focus Economia dedicato alla disoccupazione. Purtroppo continuano ad essere dati non positivi. Sono mesi che cerchiamo di leggere in controluce tutto quello che c'è di positivo. Oggi, per esempio, sulla disoccupazione è stato Sacconi a cercare di vedere positivo. Ha detto è un dato migliore di quello che ci aspettavamo. La disoccupazione è inferiore a quello che temevamo. Allora, cominciamo però col fotografare la situazione, fotografata a sua volta dall'Istat, perdonatemi il gioco di parole, e quindi questo è quanto emerge sul fronte dell'occupazione in Italia nel primo trimestre di quest'anno. Per la prima volta da 14 anni diminuisce il numero degli occupati italiani e a farne le spese sono in primo luogo i più giovani. Nei primi tre mesi del 2009 si sono persi 204.000 posti di lavoro. Il calo è stato più forte nel mezzogiorno e ha colpito in modo particolare i lavoratori italiani, che hanno visto andare in fumo 426.000 posti. Viceversa, tra la manodopera straniera si è registrato un incremento di 222.000 posti. Nel complesso, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 7,9%, vale a dire lo 0,8% in più dell'anno prima. Come era prevedibile, gli effetti della crisi si sono fatti sentire soprattutto su chi non ha un contratto a tempo indeterminato. Se nell'universo del posto fisso l'occupazione è addirittura cresciuta dell'1,3%, tra i contratti a termine, l'Istat ha viceversa rilevato una flessione di ben il 7%. Quest'ultimo dato, in particolare, spiega le pessime indicazioni che riguardano i più giovani, che nei primi tre mesi del 2009 hanno dovuto fare i conti con la perdita di 107.000 collaborazioni e con il mancato rinnovo di 154.000 contratti a termine. Alla fine, il numero di occupati con meno di 34 anni è diminuito di 408.000 unità, con un tasso di occupazione sceso al 47,9%, vale a dire 10 punti in meno della media generale. Al contrario, è risultato in crescita il mercato del lavoro degli ultra cinquantenni. A causa infatti delle regole più restrittive per andare in pensione di anzianità, gli ultra cinquantenni che lavorano sono 150.000 in più rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. Buonasera a Tito Boeri, docente di economia del lavoro alla Bocconi di Milano e tra l'altro animatore del sito lavoce.info. Buonasera Boeri. Buonasera. Allora, con lei parliamo tra pochissimo proprio di questa situazione fotografata oggi dall'Istat e anche, se vogliamo, delle dichiarazioni del ministro del welfare Sacconi, che è tornato a invitare i lavoratori italiani, giovani soprattutto, ad accettare tutti i lavori che gli vengono proposti, perché dice ci sono lavori che vengono rifiutati. Ben ritrovati gentili ascoltatori. Ebbene, la situazione del mercato del lavoro l'abbiamo fotografata poco fa con la nostra scheda, quindi non mi dilungo sui dati. Vorrei però chiedere al professor Boeri, che è in collegamento con noi, un parere su quello che ha detto Sacconi. Tra poco lo sentiamo. Cioè dice i dati non sono peggiori del previsto, anzi, sentiamo prima Sacconi. Sono meno negativi di quello che potevamo temere. Siamo ancora al di sotto dell'8%. In un paese che fino a non molti anni fa aveva il 12,5% quale tasso di disoccupazione. Dobbiamo sempre fare questi confronti per capire con che cosa ci confrontiamo, il che non toglie nulla toglie alla preoccupazione che dobbiamo avere nei confronti di quelle persone che rientrano in quella, nel risultato di quella statistica. Noi abbiamo lavorato affinché rimanessero quanto più vivi i rapporti di lavoro. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati e per fortuna l'abbiamo raggiunto. Ora sappiamo che naturalmente nella posizione del ministro si cerca anche di difendere un po' la situazione, è naturale nell'ordine delle cose anche di infondere un po' di ottimismo, come ha ricordato anche oggi Berlusconi. Però Boeri, il punto è, al di là della questione politica, per come sta andando la situazione economica, la crisi, le aziende che chiudono, il PIL che quest'anno calerà del 4, il 5, il 6%, non si sa, questo calo dell'occupazione è, come dire, era prevedibile in qualche modo, o bisogna preoccuparsi? Oppure, insomma, tutto sommato era lì e dovevamo semplicemente registrarlo. Era prevedibile ed era stato previsto ed è stato concentrato sui giovani in cerca di lavoro e sui lavoratori precari, anche questo era stato previsto, ciò non toglie che bisogna preoccuparsi. Non mi preoccuperei se il governo avesse per tempo fatto la riforma degli ammortizzatori sociali e fosse intervenuto per dare tutela a questi lavoratori. Siccome non l'ha fatto e continua a non volerlo fare, sì, mi preoccupo. Tra l'altro lei ricordava i giovani sono sicuramente più penalizzati a quello che dice l'Istat, tra l'altro tra i vari numeri ce n'è uno che mi ha particolarmente colpito, le cifre sono poi sempre quelle, però ogni tanto saltano agli occhi e impressionano, solo il 50% delle persone che hanno meno di 34 anni è occupata. Questo vuol dire in sostanza che in Italia di quello che è il bacino che dovrebbe imprimere un'accelerazione, una forza, energie nuove all'economia e alla società di questo paese, è lì fermo che sta a guardare in panchina per varie ragioni. La prima cosa che le chiederei, questa situazione accomuna o no l'Italia con gli altri paesi europei in questa fase e magari anche più in generale? Il dualismo è molto serio da noi e queste perdite occupazionali sono concentrate tra questi lavoratori. Lei pensi che è diminuito, i contratti a tempo determinato sono diminuiti di quasi il 10%, meno 154.000, i lavoratori con collaborazioni coordinate continuative hanno perso 100.000 unità, i lavoratori autonomi 163.000 posizioni sono state perse, mentre addirittura è leggermente aumentato l'occupazione tra i contratti a tempo indeterminato. Quindi colpisce solo i lavoratori temporanei questa crisi, così è quanto sta avvenendo sin qui. E esclude i lavoratori giovani dall'ingresso al mercato del lavoro. Poi il ministro Sacconi può anche dire che i giovani devono accettare i lavori di invità in bianchini, come ha fatto recentemente a Santa Margherita, ma io trovo che sia giusto che i giovani oggi studiano e che investino nel capitale umano e che cerchino dei lavori che valorizzino il loro capitale umano. Del resto il nostro paese ha bisogno di cambiare specializzazione produttiva e di puntare su posti in produzione che utilizzino al meglio il capitale umano di cui noi oggi disponiamo. Quindi è in quella direzione che bisogna lavorare, bisogna investire nelle giovani generazioni. Stiamo invece facendo esattamente l'opposto. Allora sentiamo intanto il ministro Sacconi, proprio questa dichiarazione che ha fatto sulla necessità, è tornato a dirlo, di accettare tutti, proprio tutti gli impieghi che vengono offerti ai giovani, e poi la commentiamo insieme per capire Boeri, perché insomma al di là dell'invito e del consiglio, che forse è anche giusto in tempi di crisi, però poi voglio capire se il mercato del lavoro funziona davvero così, passando da un lavoro all'altro, anche cose molto diverse tra loro, oppure no, lei in parte ha già dato una risposta. Sentiamo Sacconi. Se questa crisi può essere devastante per i lavoratori, le lavoratrici, i lavoratori cinquantenni, questa crisi può essere salvifica verso giovani generazioni spesso intrappolate nel posticipo delle scelte responsabili di vita, anche a causa non solo, come spesso è accaduto, di famiglie distratte, ma di università particolarmente autoreferenziali. Questi, ai giovani, io credo debba essere rivolto l'appello responsabile ad andare a lavorare. Beh, che detta così, tra l'altro, non suona neanche benissimo. Andate a lavorare, sembra quasi... Oltre al danno, la beffa. Guardi, durante le recessioni in tutti i paesi del mondo normalmente si investe davvero in istruzione, è una cosa giusta da fare, siccome ci sono meno opportunità in giro, è il momento in cui è più giusto anche fare questi investimenti, costano di meno e si potranno valorizzare dopo. Ecco, perché questo è un punto... Ai giovani venga data la possibilità di competere sulla base di regole uguali. Perché questo è un punto interessante. Ma in Italia che oggi non è così. I giovani sono discriminati due volte. Sul mercato del lavoro ricevono dei contratti che sono destinati a essere i primi a sparire non appena c'è qualche crisi, non solo generale ma anche aziendale, e poi fuori dal mercato non ricevono nessun aiuto. Questo è davvero insostenibile, vuol dire a tutti i giovani italiani: guardate, questo non è un paese per voi, non è un paese per giovani. Questo è il messaggio che si sta dando alle giovani generazioni d'Italia. Io trovo che sia un messaggio gravissimo. Ecco, però Boeri, d'altra parte mi viene da dire, può essere una risposta anche alla crisi, cioè si è detto più volte torniamo alle radici, torniamo ai lavori umili, torniamo a muoverci piuttosto che stare fermi. Però io quello che mi chiedo è questo: lei, da esperto conoscitore anche del mercato del lavoro, anche se la sua risposta politica ce l'ha già data, io mi chiedo, funziona davvero così? Cioè perdo il posto di lavoro al call center, mettiamo, e vado a fare l'imbianchino, oppure magari senza averlo mai fatto, oppure l'azienda chiude, io sono un cinquantenne, ho qualche spicciolo da parte e mi compro una licenza di un taxi, vado a fare il tassista. È così che potrebbe anche funzionare il mercato del lavoro, oppure quella che descrive Sacconi in qualche modo è un po' una pia illusione, perché in realtà poi questo non accade. La risposta l'ho data da economista sulla base dell'andamento dell'economia italiana. L'economia italiana in tutti questi anni è andata male, peggio di altri paesi, perché siamo ancora specializzati in comparti, in produzioni, in cui noi l'unico terreno di concorrenza è sulla base del costo del lavoro. L'unica possibilità che abbiamo per uscire dalla crisi più forte è cambiare specializzazione produttiva, investendo di più in settori ad alta tecnologia, ad alto contenuto di capitale umano. Questa è la strada, maestro, perché altrimenti soffriremo sempre la concorrenza di paesi a basso costo del lavoro, non potremo mai pagare i nostri lavoratori come gli operai cinesi che guadagnano 100 euro al mese. E quindi è per questo che abbiamo bisogno di manodopera più qualificata, abbiamo bisogno di investire in istruzione, abbiamo bisogno che le imprese investano anche in settori in cui si fa più utilizzo di lavoratori con istruzione. Quindi chi può studiare durante la crisi fa bene a farlo e investire nel proprio capitale umano, ed è giusto ambire ad avere dei posti che rispondano alle proprie qualifiche. Certo, è anche importante, ma questo bisogna spingere i giovani a farlo, dando loro un aiuto. Quando si dà loro un aiuto bisogna anche imporre che cerchino un lavoro. Qui ci deve essere uno scambio, come avviene in altri paesi: io ti do un aiuto, lo Stato ti aiuta a trovare un lavoro, se tu non ti impegni a cercarlo e rifiuti delle offerte di lavoro, io ti posso sanzionare. È lo schema cosiddetto del welfare to work, da andare dalla prestazione, dall'aiuto al lavoro. In Italia non si dà welfare ai giovani, non si dà nessun aiuto, come si fa a chiedere a loro di andare poi a lavorare? Bene, dobbiamo fermarci qua. Io volevo fare un'altra domanda, però non abbiamo più tempo. Se ci sarà un autunno caldo, perché insomma con questi chiari di luna, con la crisi ancora da assorbire, il calo della disoccupazione che tra l'altro sembra arrivare in un secondo momento, può darsi che a settembre ci si trovi con una concomitanza di fattori negativi e magari davvero anche una crisi sociale. Però non abbiamo tempo per affrontare questo argomento. Io la ringrazio, professor Tito Boeri. Ricordo, docente di economia e lavoro alla Bocconi di Milano. Ci fermiamo qua, sono le 18:28. Un ringraziamento anche a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Ci fermiamo qua, tutto il resto della programmazione tra poco Cruciani. Da Alessio Maurizi, l'augurio di una buona serata.